Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis. Ci sono circa 8.000 comuni in Italia, di questi un migliaio hanno aderito al patto dei sindaci. Di che cosa stiamo parlando? Di un'iniziativa europea che mira a calare, diciamo, sulla scala dei comuni l'obiettivo 20-20-20, ovvero 20% di rinnovabili, 20% di CO2 in meno nel 2020. In ballo ci sono un bel po' di soldi, perché la BEI, l'Istituto Europeo di Credito che eroga i fondi, finanzia fino al 90% dei costi di progettazione delle opere e poi finanzia le opere stesse a un tasso agevolato, 0,15 punti percentuali in meno del tasso di sconto praticato dalla banca centrale. Parliamo evidentemente proprio di quelle opere che in qualche modo o aumentano il risparmio energetico oppure aumentano la produzione di nuova energia da fonti rinnovabili. Per ottenere il finanziamento, il comune o l'ente a cui si affida il comune, di solito si tratta di una ESCO, deve individuare e concertare con le parti sociali una serie di progetti sul territorio. È sulla base proprio di questi progetti che la BEI concede il finanziamento. Ed eccoci al punto: da dove cominciare per stendere il piano? Partire da zero non è facile. È d'accordo Burgin? Ovviamente sì, perché si tratta di tradurre volontà politiche in azioni reali. Burgin, la presento intanto. Lei è il presidente del coordinamento Agende 21 Locali Italiane. Buonasera. Buonasera. Eccoci qua. Allora, diciamo subito che noi oggi poi parleremo di un software gratuito, si chiama Wizard, è online e risponde appunto almeno in parte alla domanda di cui sopra, cioè come cominciare. Questo software è stato realizzato nell'ambito del progetto europeo Sustainable Now. La prima domanda però che le faccio è: mediamente i comuni sanno quanta CO2 producono, quanta energia consuma il territorio e soprattutto come consuma energia il territorio? Tendenzialmente no, forse qualche caso d'eccellenza, molti avranno un piano energetico concentrato in primis sulle loro emissioni dirette, quindi sui loro consumi energetici che le generano. Credo che difficilmente i comuni italiani abbiano già un livello di informazione così accurato da poter stabilire con precisione qual è il consumo di energia sul territorio e qual è conseguentemente l'emissione di CO2. Ecco, e quindi insomma è un ostacolo questo già in partenza, quello di non sapere da che cosa si parte. In più bisogna anche individuare le azioni, e qui veniamo a questo software Wizard. In concreto, che tipo di informazione ha bisogno per funzionare e che tipo di risultati produce? Diciamo che il software è uno strumento a disposizione dei comuni che hanno aderito al patto dei sindaci, che parte con una delibera di consiglio comunale in cui si afferma la volontà di raggiungere sul proprio territorio comunale il 20-20-20 che diceva correttamente lei adesso. Da qui nasce un passo successivo che è l'inventario delle emissioni di CO2 e conseguentemente la definizione del piano d'azione per raggiungere l'obiettivo entro il 2020. D'accordo, ed è di questo piano d'azione che stiamo parlando, no? Esattamente. Il piano d'azione è chiaramente un'elaborazione tecnica che deve andare di pari passo nella sua costruzione con una condivisione sul territorio. Mm-hmm. Gli amministratori possono, ma sarebbe un esempio negativo, affidare chiave in mano la realizzazione a un tecnico esterno che ti porta il pacchetto già confezionato, oppure costruire sul territorio con i cittadini il percorso che arriva a quel risultato. Ecco, però parliamo di questo software. Esattamente, il software è uno strumento nelle mani degli amministratori che vogliono trovare sul proprio territorio le diverse priorità tra le tante azioni che si possono fare con il consenso dei cittadini. Che cosa buttiamo dentro? Che cosa tiriamo fuori da questo software? Nel software buttiamo dentro dati territoriali sul comune, popolazione, territorio, percentuale abitata, percentuale industriale, percentuale agricola, boscata, eccetera. Possiamo buttare dentro anche informazioni più raffinate, i dati sulla mobilità, quanti sono gli spostamenti, la loro lunghezza, la tipologia, possiamo buttare dentro il consumo di gas, metano, eccetera, eccetera. Insomma, più informazioni buttiamo dentro e meglio è, perché così il software insomma ha più dati evidentemente per fare le stime che deve fare. Una volta che abbiamo buttato dentro tutti questi dati, che cosa viene fuori? Viene fuori una lista di possibili azioni. Di queste azioni viene quantificato un ipotetico costo, viene quantificato un beneficio. Ci può fare qualche esempio, un paio, giusto per capire? Ma chiaramente dipende, tutto è correlato alla tipologia del territorio o della città. più in specifico. Certo. Allora, una città che ha molte piscine e che ha centrali vecchie a olio combustibile con cui scalda trovare, queste piscine come Bologna. Piscine come Bologna può trovare particolarmente vantaggioso, e quindi indicare all'amministratore che è prioritario quell'intervento lì, una sostituzione delle vecchie caldaie con centrali a cogenerazione a metano abbinate a pannelli termici. Perfetto, insomma, quindi dà proprio dei suggerimenti anche abbastanza precisi. E in pratica il software usa, questo ho anche capito, delle città campione, si basa su similitudini, su differenze, e in base a queste, ai dati poi anche inseriti, elabora i risultati. Ecco, ma questi risultati come li dobbiamo intendere? Come una Bibbia o... Sì, li dobbiamo intendere come uno strumento, per cui l'amministrazione... Ah, quindi lei conferma come una Bibbia. No, con una Bibbia, li dobbiamo intendere come un utilissimo strumento di indicazione di priorità. Tanti amministratori, quando guardano il tema dei rinnovabili, pensano a mettere il pannello fotovoltaico sulla loro scuola. Certo. La cosa in sé è utilissima, ma magari ci sono 100 altre ipotesi più vantaggiose. Dove troviamo questo software? Lo troviamo sul sito www.a21italy.it, che è il sito del coordinamento dell'Agenda 21 italiana. Perfetto, grazie Burgin. Grazie a lei. Beh, un appunto prima di concludere, bisogna aggiungere per completezza che i piccoli comuni fanno molta fatica ad accedere direttamente a questo programma dell'Unione Europea, perché il taglio minimo dei progetti accettati è di 50 milioni, quindi normalmente questi comuni devono consorziarsi oppure affidarsi a delle ESCO o alla provincia per raggiungere, come dire, la dimensione critica necessaria ad accedere a questi fondi. Questo è tutto, domani parliamo delle prospettive delle rinnovabili termiche a partire da un interessante convegno che è in arrivo. Buona serata.